Comunque, domenica mattina, oggi che giorno è? Il 29, 30, 30 di gennaio. Va bene, stavamo conversando a colazione proprio sulle origini del capitalismo, sulle origini della produzione industriale. E perché ci occupiamo di questo? Cosa c'entra? Questi sono studi di storici, oppure studi che riguardano storie dell'economia, comunque. Come ti dicevo poco fa, noi siamo interessati alla storia delle idee. Come dice Panica, le idee sono la musica sui quali i governi e i popoli danzano. E proprio questa mattina stavo leggendo un'altra parte, ritornando su un'altra parte del libro di Zoya, e Zoya fa comprendere con molta chiarezza come quello che noi viviamo nel mondo occidentale non è frutto del caso, ma è frutto di un sistema di idee che si è formato a partire dal V secolo avanti Cristo, vittoria dei greci sui persiani, e via poi con lo sviluppo del cristianesimo, in particolare poi del protestantesimo, che ha visto come bene per l'uomo, che cosa? Crescere, svilupparsi. Già questo c'è nella Bibbia, voglio dire, dominerete sugli animali, sui pesci, sui rettili, sugli uccelli, e quindi il mondo è un po' al servizio dell'uomo, che è fatto a immagine di Dio, cioè un creatore. Ecco. Allora l'uomo per meritarsi questa posizione si deve dare da fare in Occidente. In Oriente è esattamente il contrario. In Oriente l'uomo deve rispettare la natura, non deve fare troppo. L'idea del limite, di cui abbiamo già parlato tante volte, che c'era molto forte in Grecia prima del V secolo, poi si è affievolito, l'idea del limite, l'idea della moderazione, l'idea di non attivare l'aphthonos theon, cioè l'invidia degli dèi e quindi l'hubris, la tracotanza quando si va al di là dei propri limiti, e quindi poi la nemesi, cioè la vendetta, ecco, era molto forte in Grecia, poi si è affievolito. Va bene, questa mattina stavamo parlando, volevo parlarti appunto di come c'è una differenza enorme tra il sistema di idee, la visione del mondo, in generale degli orientali, che riguarda la Cina, l'India, e anche di diverse religioni che sono là, buddismo, induismo, confucianesimo, ecco, tutte queste religioni hanno comunque, pur nella loro enorme differenza, hanno un denominatore comune, che è quello che il mondo va visto così com'è, tenuto così com'è, va cambiato. Ecco. In questo senso l'Oriente era molto sintonizzato sullo stesso tipo di idee che c'erano in Grecia prima del V secolo. Allora, stavamo parlando dell'origine del capitalismo e mi rifacevo appunto a che cosa è accaduto tra il papato e l'impero nell'undicesimo secolo, no? Quando il papa ha scomunicato l'imperatore e l'imperatore ha deposto il papa, insomma, si sono delegittimati reciprocamente. È iniziata una vera e propria guerra tra queste grandi istituzioni che ha portato via forza, per esempio, al papato di occuparsi degli affari ordinari e quindi del controllo del territorio. E quindi che cosa è successo? Che siccome il papato aveva un'ideologia molto forte sull'economia, che l'economia doveva essere economia di sussistenza e non economia di mercato, perché pensa soltanto al fatto che il credito era ritenuto un peccato, cioè il prestare denaro per interesse. Ecco, proprio in quel periodo lì cominciarono a fiorire i comuni. I comuni cos'erano? Erano dei gruppi di artigiani che si riunivano insieme e potevano cominciare a pensare non a produrre solo per sé e poche persone intorno, ma a produrre per mercati via via più lontani. Naturalmente, l'iniziale rottura che ci fu rispetto al dominio della Chiesa, fu un momento, come dire, di grande euforia, no? Perché diciamo, finalmente ci siamo liberati da un potere dominio e possiamo fare quello che avremmo sempre voluto fare, cioè poter produrre le cose, espanderci, quindi per creare ricchezza. Beh, ma proprio lì, in quel momento lì, come era accaduto in Grecia dopo la guerra dei persiani, e il potere e dominio ha preso un'altra forma. Che cosa ci detto in tre parole? Per poter produrre di più di quello che serve ci vogliono di solito i macchinari. Questi macchinari costano. E quell'artigiano che riusciva a comprare i macchinari, mettiamo un esempio più classico, era i telai, per tessere, insomma, macchinari complicati, e ci volevano soldi. Chi riusciva a comprare i macchinari adatti diventava molto più potente degli altri come produttore, riusciva a produrre a prezzi più bassi e quindi a un certo punto toglieva il lavoro agli altri. Gli altri artigiani che non erano in grado di raggiungere questa posizione non rimaneva che tornare nei campi, morire di fame oppure diventare salariati, no? Schiavi salariati del questo. E gli artigiani che riuscivano a diventare imprenditori, quindi poi appoggiarsi ai mercanti o loro stessi diventare mercanti, diventavano sempre più potenti. Ecco. Bene, che cosa è successo? Quindi che delle persone che unite si erano ribellate contro un potere oppressivo cominciarono a dividersi tra di loro perché il potere oppressivo era già dentro di loro. Non hanno portato dentro i comuni l'idea dell'eguaglianza, della giustizia, della fratellanza, col cavolo. Hanno fatto il contrario, si sono messi gli uni contro gli altri e hanno creato l'origine del capitalismo, che è un capitalismo che è spietato, cioè che elimina la concorrenza, che è una vera e propria guerra. Dando quindi ragione, dopo secoli e secoli, alcune intuizioni che c'erano nel pensiero religioso, no? E che c'erano nel pensiero greco, insomma.